quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace, lieve affetto ad ispirare. Essa legge, studia, impara, e non più a cosa d'essa ignota, io son sempre un idiota, io non so che sospirar. Quanto è cara, quanto è bella, in quel cor non son capace, io mi affetto ad inspirar, in quel cor non son capace, io mi affetto ad inspirar, insegna a farmi amare, vezzoso, forse poco alla più bella mia diletta villanella, io ti porgo questi fior, ma di lui più glorioso io di lui felice sono, poi che in premio del mio dono, poi che in premio del mio dono ne riporta il tuo bel cor. Chiaro in quel visino, io fo breciare il tuo petto. Non è cosa sorprendente, son galante e son sargente. Bomba bella per resista alla vista, dolci miero, c'è di amarta io guerriero, figlia madre dell'amore, c'è di amarta io guerriero, figlia madre. Dio guerriero, figlia madre dell'amore. Yeah, I'm a fool. Thank you. cambiarsi qual tu fai, può cambiarsi ogni altro amore, ma non può giammai il primiero uscir dal cor. Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta? Oh, che cosa? voglio dire lo stupendo Elisir che d'est'amore. Oh, sì, sì, capisco, intendo, io ne son distintore. E fiavero? Sì, se ne fa gran consumo in quest'età. Fortuna che ne vendete ogni giorno e con prezzo ne volete. Poco assai, poco è secondo un zecchino, l'altro qua è la somma che ci fa. Si puote con riguardo al pianino la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ah si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada, ben, quindi andata la vicini, che è davvero a gente il video, per effetto sorprendente non è tardi a conseguire, per effetto sorprendente non è tardi a conseguire, non è tardi a conseguire. Sul momento, a dire il vero, necessario un giorno intero, quanto tempo sufficiente per cavarne e fuggire. Il sapore, eccellente, eccellente, eccellente, Bordeaux, non è lì. Obbligato, ma sono obbligato, sono felice, sono contento, sono diretto da bontà, benedetto chi ti fa, obbligato, obbligato, sono felice, sono obbligato, felice, diretto da bontà, benedetto. Obrigado, obrigado, só te agradeço, só te agradeço. Ele disse, te dá vontade, mas é do que te dá. Giovinotto, ehi, ehi, signore, sopra ciò, silenzio, silenzio, silenzio, oggi dispaccia il lavoro, è un affar geloso assai. Sicuramente è un affar geloso assai. Impacciarsene potria un pampin d'autorità. Dunque silenzio, la strada via, e anche un'anima il sangue. Silenzio, la fede mia, silenzio, la fede mia. Mortale fortunato, un tesoro donato, tutto sotto femminino, che domani sorbirerà. Oh, mortale fortunato, un tesoro donato, tutto sotto femminino, che domani sorbirerà. Ah, dottore, ti do una parola, io verrò per una sola, né per altra, e sia pur bella, né una sola spilla, a pagerà. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

Sei che m'amerà, Ricordati la loro a mantenerla. Tu sei disposta e non anticipi che mai ti costa. Fin da quest'oggi non puoi sposarmi. Fin da quest'oggi. Tu fossi in te, infin ch'io tengo, apri le mani, varie buffone, nascondi a me, varie buffone, nascondi a me. Ah, dottore! Oh, aspetta ragazze, vi aspetto a ballare. Un ballo un momento, e poi l'amore in guarnigione non ti può Oh, sempre buon figliolo. Ho ingaggiato il mio rivale, ma non sai, anche questa è da contarsi. Quando ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Thank you. siam. Salamissima! Giannetta! Ma cosa ancora se giovane? Ma cosa? Non prendevo il rino. Ma cosa? Non prendevo il rino. Ma cosa? Oh, Come senta contento? Madre mia! Nostro dottore! Sì, tutta la gioia le mia comando, io distillo il piacere, l'amor l'ambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto partendo in me del mio decotto. Pazzie, voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi, dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta. Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni cotta. Che ascolto, che ne morevo con le stelle di sera. Poi me lo chiese, per ottener l'affetto di non so qual crudele. Non viva, sospirava, senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, prende la libertà, si fece il voto. Avresti come, ti nego suo valore. Sceveltà, l'amor nascente a farlo indifferente, si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi. E Morino, e me. Perché partire? Perché parte soldato? Hai risoluto? Perché? Perché ho voluto secondo il mezzo il mio destino io potea migliorar. La tua persona, la tua vita ci è cara. Io ricomprai il fatale contratto del cuore. Voi stessa è naturale 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。